Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e otto minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. Allora, la cronaca di questa giornata economico-finanziaria. Inizieremo dalla borsa e poi parleremo delle piccole o micro imprese del paese. Oggi si sono associate alcune imprese in un patto, in una rete per l'Italia, però i temi restano su come le imprese da piccole possono diventare un po' meno piccole e la differenza tra un'impresa piccola e un'impresa nana. I mercati, allora io non so da che parte prendere un commento in cui Milano guadagna il 10,1%, Parigi guadagna l'8,90%, Francoforte, che meno era calata, guadagna il 4,8%, e Londra il 3,94%, l'America il 3,77%. Se guardiamo i titoli, beh, insomma, Unicredit più 19%, Intesa più 18%, Mediobanca più 16%, Popolare di Milano più 12,5%, Generali più 11,4%, Banco Popolare più 11%, Monte dei Paschi più 10,3%, Buzzinese più 9,90%, come Telecom Italia, Exor, Fiat più 9%, Mediolanum più 8,70%, Fondiaria Assai più 8,70%, L'Automatica più 8,5%, Azimut più 8,4%, Pirelli più 8,3%, Unipol più 8,20%, Atlantia più 7,80% come UbiBanca, Prismian più 7,60% come Italcementi, Impregilo più 7,40%, Saipem più 7,12%, CIR più 7,1%, Enel più 7%. E poi Autogrill più 6,70%, Ansaldo più 6,50%, Eni più 6,20%, Mediaset più 6%, A2A più 5,80%, Luxottica più 5,50%, Finmeccanica più 5,30%, ST Microelectronics pure, e anche Geox. Allora, che cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che c'è stato chi ha guadagnato molto i giorni della scorsa settimana, chi ha venduto allo scoperto, cioè ha comprato un titolo senza metterci i soldi e poi l'ha ricomprato quando il titolo valeva molto di meno. Effettivamente la differenza è un guadagno, è il modo in cui si guadagna quando i titoli perdono. Probabilmente gli stessi soggetti, banche anche italiane, sale operative, che hanno guadagnato molto sul crollo dei mercati la settimana scorsa, stanno guadagnando tantissimo sul recupero dei mercati, e quindi si guadagna sui crolli, si guadagna sui rialzi. Questi sono i galli del mercato. Eh sì, ci sono i galli, poi ci sono i polli, cioè tutti quelli normali, le persone che investono normalmente in borsa e che non hanno partecipato, però non possono farlo né ai guadagni sui crolli dei mercati, quindi le vendite allo scoperto, né probabilmente oggi hanno avuto il coraggio di comprare, perché insomma, con quello che era successo, uno sta alla finestra. Insomma, piove sul bagnato, chi specula sul crollo dell'euro poi specula il giorno dopo, o la seduta successiva, sul fatto che la nottata è passata, la tempesta se n'è andata, tutto va bene, madama la marchesa. E allora alcuni chiedono: ma cos'è una borsa, una bisca? Beh, insomma, di solito è una borsa. E ne parliamo alle 18, perché insomma sicuramente non è pensabile poi vendere una parvenza di serietà quando un titolo perde il 10% il venerdì e guadagna il 18%, il 12% il lunedì. Chiaro che c'è stato l'accordo europeo nella notte, arrivato alle 3:30 di questa notte, i 720 miliardi, la disponibilità della Banca Centrale Europea a comprare obbligazioni dei paesi in difficoltà, la rete anche col Fondo Monetario, tutte cose politicamente molto rilevanti e importantissime, però magari bloccare le vendite allo scoperto la settimana scorsa non sarebbe stato male, cioè impedire alle banche, ripeto, ai grandi speculatori in generale, di guadagnare dal crollo delle banche stesse. dal crollo delle borse. Bastava bloccarle, le hanno bloccate ai tempi di Lehman Brothers. Quando crollò Lehman Brothers si bloccarono per alcune settimane le vendite allo scoperto, ma evidentemente le autorità di vigilanza sonnecchiavano, salvo poi telefonarsi il sabato e la domenica in tutta Europa per mettersi d'accordo su che inchieste aprire e scoprire se c'è turbativa di mercato. E ne parleremo nella seconda ora del programma, cercando di capire anche le agenzie di rating. Ora lo voglio chiarire, nessuno qui ha mai contestato le agenzie di rating quando fanno il loro lavoro, anzi nel passato le abbiamo criticate perché non facevano il loro lavoro, perché davano i voti alti a Lehman Brothers il giorno prima che fallisse, la stessa cosa per Parmalat, per Enron e via discorrendo. Il problema è che quando fai il tuo lavoro devi essere preciso, dire nomi, cognomi e motivazioni, dire che le banche europee di alcuni paesi europei potrebbero essere contagiate dalla crisi greca senza fare nomi, cognomi, motivazioni, modalità. Secondo alcuni, e mi devo dire che trovo abbastanza corretta l'opinione, rappresenta di fatto una turbativa di mercato. Sì, abbiamo fatto il gioco degli speculatori, ha ragione chi sta scrivendo. C'è qualcuno che ha guadagnato decine di milioni in questi quattro giorni di passione, e non sono certo gli stati europei. Andiamo avanti, comunque l'euro è in recupero anche se a quota 1,283, anche qui io non riesco a capire perché si continua a scrivere di euro che è crollato a quota 1,26, è sempre il 26% più del dollaro, che poi Barack Obama si è preoccupato perché lui vorrebbe un dollaro sempre basso per riequilibrare la bilancia di pagamenti e continuare a esportare, è un approccio americano, ma come si fa a dire che l'euro è debole, attacco all'euro con l'euro a 1,26, il problema è l'attacco al sistema europeo, delle finanze, delle borse e dei conti pubblici. Vabbè, confermata l'euforia, addirittura Madrid guadagna oltre il 13%, Atene più 10%, abbiamo scherzato. La Spagna comunque ha annunciato tagli ulteriori da 15 miliardi in due anni, la Banca d'Italia ha iniziato assieme ad altre banche centrali europee a comprare titoli di Stato dell'area euro, quindi non solo italiani, non solo greci. E quindi questo a dimostrazione che le banche centrali hanno dato un nuovo messaggio, che la rete di protezione è in atto, e lo ha confermato oggi anche il numero uno della Banca Centrale Europea, Jean-Claude Trichet, ha detto abbiamo iniziato ad acquistare, non direttamente come Banca Centrale Europea, cioè attraverso le varie banche centrali, i titoli di Stato, i BOT, i BTP dei vari paesi dell'area euro. E adesso però Trichet chiede al governo un rigore sui conti. Oh, benissimo, un rigore sui conti, mai nessuno che voglia affrontare il tema della riforma di questi mercati finanziari, dei controlli. Se fosse, come scrivono alcuni ascoltatori, stata affrontata dopo Lehman Brothers, quindi a fine 2008, inizio 2009, una vera riforma che regolasse i mercati, che impedisse le vendite allo scoperto, che regolasse i CDS, i credit default swaps e tutti gli strumenti a leva, non ci saremmo trovati come ci siamo trovati la settimana scorsa. Comunque buone le notizie economiche anche dalla Germania, più 10% l'export, è record nell'export tedesco dal 1992. Anche la produzione industriale è andata molto bene in Italia a marzo, più 6,4% rispetto a un anno prima. È il miglior risultato quanto a variazione della produzione industriale dal dicembre del 2006. Il centro sui Confindustria fa sapere che vi sarà un più 0,9% anche ad aprile. C'è comunque una distanza dal livello pre-crisi ancora del 20%. Non volete le bolle? Chiede un ascoltatore al 349-238-6666. Non volete i crolli, ma cosa volete? Ma abbiamo un sogno nel cuore, un mercato che si muove sui fondamentali di bilancio, sui fondamentali macroeconomici, che va a vedere quel rapporto prezzo utile atteso. Cioè queste cose qui, ma no, mi rendo conto che siano troppo prosaiche, e avete ragione nello scrivere che è bastato dire che ci sono 700 miliardi teorici, è vero, non si sa ancora come saranno garantiti questi prestiti, i vari paesi come li approveranno, insomma sono teorici a disposizione e tutto va bene. Allora, migliora la produzione industriale anche secondo l'ISAE, torniamo in Italia, e questa era l'ultima notizia, ma restiamo in tema di produzione industriale, di industria italiana, perché oggi a Roma è stato dato il via a una specie di quello che viene chiamato patto di Capranica, ma insomma una rete di imprese italiane che rappresenteranno oltre 2 milioni di imprese sul territorio. Abbia pazienza chi ci chiede di aggiotaggio, di altre turbative di mercato. Ne parliamo tutta la seconda, tutta la mezz'ora dalle 18 in poi. Dicevo, i piccoli e i micro imprenditori cercano di allearsi. Un patto che vede Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti, CNA e Casa Artigiani riuniti in Rete Imprese Italia. Rappresenterà 2 milioni di piccole aziende su un totale di 4 milioni. Sarà guidata dal presidente Confcommercio Carlo Sangalli per i primi 6 mesi. E allora ascoltiamo lo scopo dell'iniziativa proprio dalle parole di Carlo Sangalli. Rete Imprese Italia nasce per dare al popolo del fare impresa identità e voce comune e dunque più forte, capacità di rappresentanza e di rappresentazione comune e dunque più forte. La nostra ambizione è piuttosto quella di modernizzare la rappresentanza delle imprese per modernizzare l'economia e la società italiana. E apprezzamento per questo accordo anche dal ministro del welfare Maurizio Sacconi. Ciò che semplifica il dialogo sociale, la rappresentanza degli interessi, è comunque un fatto altamente positivo. È importante che le piccole imprese, che sono la grandissima parte del nostro sistema produttivo di beni e di servizi, decidano una unica rappresentanza, perché io credo che valga il criterio per cui ciò che va bene alla piccola impresa va bene al paese intero. La stessa regolazione che assumiamo deve essere sempre tarata su forme organizzative semplici, e a maggior ragione quella regolazione andrà bene per forme più complesse di impresa. Credo che poi sia questo un tassello della più generale unità delle organizzazioni che rappresentano l'impresa, come si è visto nel corso anche di questi 2 anni difficili, quando il dialogo sociale ha garantito coesione sociale. Così appunto il ministro Sacconi, di passo incoraggiante di questo patto cosiddetto del Capranica, questo patto che ha creato la Rete Imprese Italia, ha parlato anche il leader del PD, Pierluigi Bersani. Passo incoraggiante appunto l'ha definito al microfono della nostra Alessandra Schepisi. Io personalmente mi cavo un piccolo gusto, perché da anni e anni, anni fa, che quando ero ministro, ho sempre cercato di incoraggiare, per quel che toccava a me, questo tipo di convergenza. Noi abbiamo bisogno non di moltiplicare i corporativismi, ma di dar luogo a dei grandi aggregati di rappresentanza che siano in condizione di dirla loro, non solo sui loro interessi, ma sulle prospettive di questo paese qua. Quindi il passo di oggi per me è un passo incoraggiante, un passo che può dare fiducia. Questi quindi i commenti principali all'annuncio di oggi di questa Rete Imprese Italia, un nuovo soggetto appunto che rappresenterà oltre 2 milioni di piccole imprese. Siamo in collegamento allora con il presidente della piccola industria di Confindustria, Vincenzo Boccia. Buonasera. Buonasera a lei. Adesso chiariamo anche vari aspetti, perché tra l'altro nel fine settimana il governo ha firmato, l'ha fatto il presidente Berlusconi, la direttiva sul cosiddetto Small Business Act, cioè un'iniziativa in cui viene dato particolare rilievo al contratto di rete, cioè alla possibilità per le piccole imprese di mettersi a rete. Ma insomma, voi non avete partecipato al patto di Capranica, c'era la Confcommercio, appunto, Confesercenti, Confartigianato, Casa Artigiani, CNA. Come mai? Intanto, diciamo, non siamo stati invitati, ma al di là di questo mi permetta, come dire, di segnalare anche da parte nostra una positività nell'aggregazione che hanno realizzato, perché noi pensiamo che il rafforzamento, da ogni parte esso arrivi, dei cosiddetti corpi intermedi del paese, sia un valore per tutti. E quindi sui punti dove ci sarà competenza e condivisione con i nostri colleghi, cugini, siamo, come dire, nella condizione di poter sicuramente sottolineare ancora di più quanto abbiamo sempre dichiarato in questi anni, in questi mesi, e cioè che una politica per le imprese è una politica per il paese. Con una grande considerazione che la grande sfida del paese è cercare di avere imprese forti, siano esse piccole, medie o grandi, più che una questione dimensionale. Per noi la questione dimensionale è comunque una condizione da superare. E qui forse sta la differenza anche più grande tra le piccole imprese associate in Confindustria e invece questa del patto Capranica. C'è chi ha detto, un conto è essere piccoli e un conto è essere nani, come un po' per lo sviluppo di una persona. Cioè, piccolo è qualcuno che poi cresce e quindi va bene, è fisiologico essere piccoli in quel caso, è normale. Nano invece è un elemento più patologico, cioè non riesci a crescere come dovresti. È vero, il nanismo comporta una condizione per la quale non si può più superare. L'essere piccoli invece è una dimensione che uno o un singolo imprenditore può scegliere o può superare diventando più grande, e qui poi si apre tutto uno scenario. Con l'alleanza di questo patto c'è un punto in cui non vedo, diciamo, grandi conflitti, e cioè nel senso che le aziende, nel momento in cui crescono, evidentemente passano a una struttura come Confindustria. Nel momento in cui sono più piccole possono definire di scegliere di essere iscritte, diciamo, a una struttura più articolata come Confindustria, oppure, diciamo, a un gruppo come questo che oggi si è costituito. Ma in tutti i casi ritengo, come già è accaduto, le ricordo per il MUD, cioè tutta la questione che abbiamo vissuto con una dimensione di comunicato comune insieme a tutte queste associazioni, e quindi elevando l'attenzione del governo per quella questione che abbiamo subito, tra virgolette, sulla questione appunto di deroga del cosiddetto MUD, è stato un elemento che ci ha visto uniti in un'unica direzione. Quindi, se ho ben capito, voi dite le piccole imprese artigiane associate in questi del commercio così sono piccoli e probabilmente tali resteranno, cioè non c'è dentro chi vuole far parte di questo patto Capranica una spinta, una tensione a un ingrandimento, sia esso interno, cioè che tu stesso ti ingrandisci, oppure fatto attraverso alleanze e rete. Quando uno invece vuole, diciamo, acquisire o ha un percorso di comunque un orizzonte in cui crescono le dimensioni, sia, ripeto, diciamo, intrinsecamente, sia invece mettendosi in rete, in alleanza con altri soggetti, lì voi intercettate quel tipo di impresa. È un po', diciamo, la nostra storia, sicuramente anche così, non necessariamente, perché ho visto una dichiarazione di San Galli in cui anche lì si parla di crescita. È evidente, diciamo, che una delle domande importanti che ci stiamo facendo è come affrontare, diciamo, il futuro e come intercettare i nodi dello sviluppo e della ricchezza che comunque c'è nel mondo. Ricordiamo che il PIL del mondo comunque crescerà del più 6%, quindi evidentemente ci sono dei paesi in cui la ricchezza si sta riorientando, e per intercettarla, siccome non sono i classici paesi storici con cui abbiamo fatto i conti negli anni passati, cioè mi riferisco all'Europa, ma sono i cosiddetti paesi BRIC, Brasile, Russia, India, Cina, eccetera, è evidente che ci vuole un altro tipo di approccio, che comporta una dimensione tra aziende, che non necessariamente è una dimensione, come dire, to cure di crescita, ma può essere anche un'alleanza, può essere un network. Quindi il punto è non solo alleanza tra associazioni, che da cui ne deriva una questione politica e di forza del mondo dell'impresa, perché ogni elemento che rafforza la famiglia del mondo delle imprese per noi è benvenuto, ma poi ci vuole un elemento di merito tra imprese affinché queste si alleano davvero tra di loro per affrontare appunto i nuovi mercati e essere più forti. Ecco, restiamo su questo tema, Presidente Boccia, perché dicevo il 7 maggio scorso, quindi durante il fine settimana, il governo ha firmato la direttiva sullo Small Business Act, cioè nuove misure per aumentare la competitività delle piccole imprese italiane. Voi l'avete accolto con favore, anche perché, ripeto, 6 milioni di imprese, cioè il 99,8% delle imprese registrate presso le Camere di Commercio sono piccole, e quindi 6 milioni di imprese con oltre 9 milioni di occupati verranno interessati da questa direttiva. Se ho ben capito, viene attribuito un particolare rilievo al contratto di rete. Che cos'è? Sì, il contratto di rete è, diciamo, una delle idee. Tra l'altro abbiamo un consigliere delegato che è il nostro Aldo Bonomi, che segue, diciamo, questo aspetto, che è una delle dimensioni delle alleanze su cui stiamo cercando di orientarci e di orientare tutti i nostri associati. Mi permetta anche di dare un'ulteriore informazione. Vorrei ricordare a tutti i nostri radioascoltatori che il 97% degli associati a Confindustria sono piccole e medie imprese. Noi siamo lo specchio di questo mondo che sta cambiando. Al di là, diciamo, di alcuni aspetti mediatici che esasperano l'uno o l'altra parte, la verità è che il nostro paese si sta trasformando, le piccole tentano di diventare medie, altre piccole entrano nel sistema e speriamo sempre tante, e alcune grandi stanno cercando di diventare più forti. Questo è lo specchio di una Confindustria che ha al suo interno, diciamo, varie dimensioni di impresa. E noi stiamo cercando di farle dialogare in una logica di filiera di produzione, in una logica di alleanza, tant'è che a fine maggio addirittura supereremo anche la questione nazionale, perché sottoscriveremo un patto con la Confindustria algerina per un accordo di partenariato tra imprese italiane e algerine, in particolare piccole e medie imprese italiane e piccole e medie imprese algerine. Ma allora, poi passiamo a un'altra domanda per lei, ma la differenza più grossa tra voi e il patto del Capranica, fermo restando appunto che si lavora tutti per la rete di imprese italiana, qual è secondo lei, per, ce lo chiedono anche gli ascoltatori al 349-238-6666, questo aspetto di tensione, di possibilità di crescere che è più presente, di evoluzione che è più presente nella piccola impresa associata a Confindustria? Guardi, io oggi come oggi ho letto anche, diciamo, alcuni articoli, vedo tanti punti che i nostri colleghi hanno segnalato, che sono i punti storici che piccola industria di Confindustria ha sempre segnalato, la stessa Confindustria, la stessa Presidente Marcegaglia a Parma. Onestamente non vedo oggi sui grandi, diciamo, elementi di politica economica una diversità che ci permette di dire qual è la parte, come dire, diversa rispetto all'altra. È evidente che c'è una questione dimensionale, i nostri colleghi, come dire, si avviano a rappresentare o a tentare di rappresentare una dimensione di microimpresa, noi ci avviamo a rappresentare una dimensione di piccola, media, grande impresa. Questi sono, come dire, i due grandi tronconi. Poi ci possono essere microimprese che tentano, come dire, per cultura di diventare medio piccole, ci possono essere piccole imprese o microimprese che per vocazione, per tipo di prodotto, per cultura rimangono tali, il che non è una diminuzione, il che è una scelta, come dire, di segmenti e di mercati. Questo paese ha bisogno di tutto e noi, ripeto, vediamo con grande attenzione. Mi permetta di fare un passo indietro alla domanda che le ha fatto sullo Small Business Act, perché noi abbiamo detto che recepiamo positivamente, perché rientra in quella visione che piccola industria di Confindustria e l'intera Confindustria ha fatto proprio, cioè il tentativo di legittimare il ruolo sociale di impresa in quanto comunità e progetto di vita. E in questo ci permettiamo di segnalare e alzare la guardia, perché dopo l'adozione dello Small Business Act noi vorremmo che ci sia poi una coerente politica economica a favore delle imprese. Abbiamo adottato e adotteremo, speriamo presto, la direttiva della Comunità Europea sulla questione dei ritardati pagamenti, la dovremmo adottare senza deroghe, cioè così come impone la Comunità Europea. Ecco, questo sarebbe uno dei primi passi, insieme ad altri, la questione giustizia e quindi sui tempi, la questione infrastruttura, la questione, mi permetta di aggiungere, TFR. Oggi noi abbiamo un TFR che in realtà i nostri collaboratori non possono scegliere di trattenere anche in azienda, e quindi va o all'INPS o ai fondi. Una parte del fondo del TFR che va all'INPS serve per finanziare spesa ordinaria. Sarebbe il caso che questa parte i nostri collaboratori potessero scegliere, una questione di libertà e di civiltà, come dire, anche di lasciarla nelle proprie aziende, ammesso che lo decidano, che sarebbe anche liquidità per l'azienda. Su questi campi, su questi fronti, che sono i fronti delle scelte, i fronti del fare, vorremmo confrontarci a tutto campo con la politica, chiaramente, con i nostri colleghi e con il sindacato, perché oggi come oggi riteniamo che la politica economica sia nell'interesse dell'intero paese, se ipotizziamo, come noi condividiamo, l'idea di un'impresa comunità e progetto di vita. Quindi, se ho ben capito, lei dice, Presidente Boccia, la differenza tra noi, piccola industria di Confindustria, e quelli che oggi sono incontrati a Capranica sta nelle dimensioni, quindi sono microimprese che potrebbero diventare piccole, voi avete già piccole imprese che hanno una tensione maggiore a diventare un po' meno piccole, anche medie, però alcuni temi vi trovano tutti sullo stesso fronte, e quindi lei citava il rapporto con le banche, il TFR della scena azienda e anche un tema delicatissimo come i crediti che ancora vantano moltissime imprese. Pensate che ci sono 60, tra i 60 e 70 miliardi di ritardi di pagamento della pubblica amministrazione, soprattutto sanità, nei confronti delle piccole e medie imprese. C'è una direttiva europea che pone un obbligo sui tempi di pagamento. Peccato che l'Italia non abbia voluto che a questo obbligo si accompagnasse anche una sanzione penale, e l'Italia che si è opposta. E questi temi principali. Saluto, però avremo adesso in collegamento, intanto, mentre la ringrazio, Presidente Boccia, due casi di piccole imprese che si sono mosse non aspettando gli aiuti, non aspettando le banche, e hanno cercato di aumentare le dimensioni in due modi un po' diversi. Ivano Corsini è un imprenditore emiliano della 01 Wiring SRL, e Massimo Giovanardi è un imprenditore invece dell'area brianzola monzese della J-Spot. Ne parliamo dopo il meteo e le informazioni e le pubblicitarie. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, la chiusura delle borse, mi viene da sorridere, meno male, ci mancherebbe. Più 11,3% Milano, più 9,6% Parigi, più 5,30% Francoforte, più 4% in questo momento l'America, più 4,60% Londra. Unicredit ha guadagnato in una sola seduta il 20,9%, Intesa pure lei il 20% quasi, Mediobanca il 16%, Popolare di Milano il 13%, insomma. Vabbè, ne parleremo più avanti, ma se questo deve essere il mercato, allora fanno prima a renderlo solo per gli addetti ai lavori. Ben venga comunque l'accoglienza di tutte le borse al piano europeo. Evidentemente qualcuno aveva scherzato o speculato la settimana scorsa. Comunque, restiamo su chi fa impresa, produce occupazione, reddito e non si diverte con la bisca, scusate, volevo dire la borsa. Allora, Ivano Corsini, lei, voi siete riusciti a mettere assieme, a superare il problema delle dimensioni, non creando fusioni, non creando, facendo entrare un capitale privato, non andando in borsa, non vendendo, ma mettendo in rete tre imprese di elettrotecnica e elettronica. Sì, confermo, il progetto è nato l'anno scorso a fine settembre e abbiamo fatto un SRL, quindi abbiamo dato forma come soggetto economico individuale a questa azienda, che è la sintesi di imprenditori. Quindi non abbiamo unito le aziende che fanno riferimento ai singoli imprenditori che partecipano a questo progetto, che è ancora in fase di crescita perché ci aspettiamo altre adesioni, ma abbiamo unito gli imprenditori in modo da tenere le aziende rispettive dei singoli imprenditori autonome, autonome di poter crescere, di potersi sviluppare, mentre questo soggetto nuovo imprenditoriale 01 Wiring SRL nasce appunto da quest'idea di creare un soggetto economico destinato a sopperire la mancanza di integrazione sul mercato. Quindi i clienti dovrebbero approcciare a 01 Wiring e cercare delle problematiche, la 01 Wiring poi con gli imprenditori che gli fanno riferimento nelle varie singole aziende può dare il servizio chiave in mano completo, quindi costo certo per il cliente. Allora facciamo un esempio ancora più concreto, le società sono tutte e tre attive nell'automazione elettrica ed elettronica. Sì, esatto. Siccome lo abbiamo spiegato più volte, ma insomma un'impresa per ingrandirsi, per crescere, può o fare delle acquisizioni o fare entrare dei capitali, una joint venture, o capitali privati, sbarcare in borsa, o allearsi con un altro socio, oppure c'è la terza grande strada, che è quella della rete. Tu non vai a fonderti, non vai a creare una nuova società che è il risultato delle due, né vai a acquistare un'altra, semplicemente metti in rete tre società. Se ho ben capito, la Wiring sarebbe la società che sta in testa, in alto, rispetto alle tre società che restano diverse, no? Anche perché trovare l'accordo fra noi imprenditori di che cosa valeva l'azienda A e l'azienda B o l'azienda C e poi dopo fare una joint venture diventava troppo lungo e troppo oneroso. Abbiamo preferito fare questo primo passo e poi in un futuro, se ci sarà le possibilità, si farà una vera joint venture, magari con l'entrata anche di un fondo, perché no? Ecco, e che cosa fa la Wiring? Cioè, com'è che la rete così costruita aiuta la piccola a essere meno piccola, concretamente? Cioè gli acquisti... Mi dica. Sì, diciamo che c'è un'ottimizzazione delle risorse, quindi nel medio-lungo periodo ovviamente questo dà grossissimi vantaggi con le spese che sono costi fissi, che possono essere ricerca, sviluppo e costi commerciali. Ovviamente il cliente ha un'interfaccia unica invece che avere 3-4 fornitori con il problema relativo dell'integrazione degli stessi. Per cui, ma unite anche la logistica, per esempio, i magazzini? Sarà unita anche la logistica in futuro. Adesso ovviamente no, perché siamo appena partiti, ci vuole un po' di tempo. Per cui unite, diciamo, la centrale d'acquisti, la parte anche commerciale, il rapporto con il cliente, che invece che avere tre aziende distinte ha un soggetto in testa che tratta per le tre aziende, e unirete anche la logistica, quindi con risparmi, quelli che si direbbero sinergie, risparmi di costi. L'obiettivo è quello, è ovvio che adesso uniamo soprattutto il know-how, certo, di ogni di questi dipartimenti. Ecco, per dare un'idea delle dimensioni, le tre aziende da sole quanto valevano? Ma le tre aziende da sole avevano un fatturato che poteva essere intorno ai, in tempi pre-crisi, intorno ai 5-6 milioni di euro. Ognuna? Ognuna, no, in totale. Ah, in totale, ecco perché... No, in totale. Per cui unire ovviamente fatturato elettrico / elettronico. Sì, per cui unire tre soggetti che facevano 1,5 milioni, massimo 2 a testa, in una cosa che ne fa 5 di milioni di euro di fatturato. Esatto. E questo cambia, vi augurate che possa anche rendervi un po' più appetibili da un lato e robusti dall'altro nel rapporto con le banche? Certo. Per cui avete già avuto un riscontro su questo? Ma per ora, visto che oggigiorno quando si va verso un rapporto bancario nuovo con un'azienda SRL nuova dove non disponi di un bilancio, le problematiche, lei può immaginare, sono molteplici. Certo. Per ora una banca solo ci ha dato estrema fiducia già all'inizio, abbiamo un rapporto solo in questo momento in essere, pienamente soddisfatti, ma io ne ho interpellati 5 per trovarne una. In una battuta, per quello che riguarda invece la fase congiunturale, visto che oggi commentavamo i dati sulla produzione industriale, qualcosa si sta muovendo? Sì, noi vediamo che c'è una lenta ripresa, speriamo che la ripresa si concretizzi e diventi più stabile. Vediamo più che altro in questo momento dei picchi, non ha un andamento costante. Cioè picchi e poi di nuovo cali, un po' come la borsa? Sì, esatto. Questo un po' come la borsa, un po' meno della borsa, mi auguro. Allora, adesso vorrei sentire anche che cosa ha fatto l'azienda di Massimo Giovanardi. C'è però il traffico, una piccola risposta e poi passiamo alla borsa, non vi preoccupate. A chi dice, ma insomma, vi occupate dei piccoli imprenditori con quello che succede in borsa? Sapete, noi purtroppo siamo dei poveracci, non siamo mica come quelli che operano allo scoperto con i CDS, ci occupiamo delle piccole imprese che cercano di sopravvivere, magari di mantenere anche gli occupati, di non distruggere il tessuto economico di questo paese. Siamo un po' così, di breve pensiero, mentre c'è chi è breve sui mercati, ognuno il suo. Adesso le informazioni sul traffico, poi sentiamo anche come caso concreto cosa ha fatto la J-Spot e poi la borsa, ripeto, più 11,3%. Di nuovo in diretta, allora dicevamo, dottor Giovanardi, se il suo collega Corsini ha cercato di superare il problema delle dimensioni mettendo in rete, abbiamo capito come si fa, vedremo come, che successo avrà, è una via italiana, è chiaro che deve essere trovata una via italiana visto il nostro tessuto di impresa fatto di piccoli, piccolissimi, voi avete cercato di anche qui affrontare, reagire alla crisi, in qualche modo anche appoggiandovi a un centro di ricerca come è il Politecnico di Milano. Allora, noi la società madre è la Giovanardi, che è omonima che ha 90 anni, è omonima del mio cognome, e che produce espositori per i punti vendita. E ovviamente noi ci siamo già sviluppati da una decina d'anni creando la Giovanardi Alliance e unendo senza scambio di azioni tre società fornitrici, sono diventati veri e propri partner. Questo proprio per l'esigenza di svilupparci senza ingrandirci nel nostro settore. Invece da 2 anni abbiamo creato un'altra società, che è appunto questa G-Spot, che anziché rivolgersi al classico B2B come fa la Giovanardi, si rivolge al consumatore, e questo per creare un qualche cosa che presupponga un Made in Italy. Ci siamo rivolti al Politecnico, selezioniamo giovani designer e facciamo un design molto particolare dall'alto contenuto comunicativo che guarda quasi all'arte, e questo si rivolge al B2C. E chiaramente è una strada in salita, ma è nata per garantire una produzione Made in Italy. Nel nostro mondo tradizionale Giovanardi Molti clienti oggi chiedono la prima produzione in Italia, la seconda nel Far East. Questo fa sì che appunto noi dobbiamo guardare a 360 gradi anche in altri settori. Siccome abbiamo un know-how appunto di 90 anni, abbiamo pensato adesso per esempio di creare anche una nuova società, per non confondere le due, una società diversa. La Giovanardi c'è, rimane, anzi si sviluppa con altre ulteriormente. Adesso ho fatto un'acquisizione societaria di un fornitore. In difficoltà? No, non in difficoltà, però la seconda generazione, non esiste la seconda generazione, perché per nostra fortuna non ha figli, è un settore che posso anche dirlo, è la cartotecnica, che garantisce un made in Italy, perché per motivi di volume e costi non si va nel Far East a farlo fare, quindi conviene farlo far qui, e quindi lì vogliamo proprio investire. E in più noi, che abbiamo avuto la fortuna di fare le formichine per tanti anni, oggi abbiamo comunque, ci sviluppiamo anche con l'acquisizione di risorse umane, perché il mercato oggi offre comunque figure che qualche anno fa per noi era impensabile avvicinare. E qualche investimento anche di macchinari, per esempio mi riferisco a un laser a 5 assi nel nostro settore molto ambito, perché ovviamente le offerte sono appetitose. È brutto dirlo, ma insomma si trova manodopera qualificata anche di altissimo livello a prezzo migliore, perché la crisi ha colpito e ha creato molti esuberi di disoccupazione, come sappiamo. Ci sono situazioni anche in cui si possono fare delle acquisizioni, e poi appunto gli stessi costi dell'apparecchiatura, in questo caso laser, ma meccaniche in generale, sono più bassi. Però insomma la scelta vostra, che ci interessava, perché è stata quella di andare da un lato a lavorare con il Politecnico per aumentare il know-how, cioè le conoscenze interne, dall'altro state appunto, come lei ricordava, anche valutando l'ipotesi di produrre una parte in Cina, nel Far East, perché questo vi viene richiesto. In bocca al lupo a tutti e due, a Ivano Corsini della 01 Wiring SRL, a Massimo Giovanardi della G-Spot. Grazie a voi. E dalle cose serie, passatemi il giudizio, alle cose non serie. Non serie vuol dire la borsa di queste settimane, di queste giornate, non quella di oggi. Siamo tutti contenti che il piano europeo sia arrivato in primo luogo, che abbia convinto anche la Germania, in estrema difficoltà elettorale, diciamo, a mettere più soldi, che la Banca Centrale Europea sia scesa in primo luogo a difendere i titoli, che oggi le banche centrali, l'ha dichiarato anche la Banca d'Italia, stiano comprando sul mercato obbligazioni dei paesi dell'area euro. Non è serio vedere che una borsa può perdere il 15-20% in una settimana e anche i titoli, e poi riguadagnare tutto lunedì, perché teoricamente ci avevano spiegato che i titoli venivano comprati e venduti sulla base dei fondamentali di bilancio, oltre che di quelli macroeconomici. Invece oggi Unicredit guadagna il 20,90, Intesa il 19,7, Mediobanca il 16,5, ma anche Telecom guadagna il 10,6, Fiat il 10,5. Allora, o c'era una prospettiva brutta prima su Fiat, che non è una banca, oppure c'è una prospettiva buona adesso. Sono mancate le notizie. Questa, a casa mia, si chiama speculazione, ma io non ne capisco nulla. Così come Pirelli, mi dovete spiegare cosa è cambiato per un titolo che non mi sembra essere una banca, tra venerdì e giovedì, quando continuava a pigliare ammazzate, e oggi che guadagna 9,5%. Era speculazione prima, era speculazione adesso, probabilmente era tutta speculazione. E vabbè, parliamo allora di mercati e di mercanti, mercanti così, delle volte in fiera come il gioco. Comunque la voce serissima e gradevolissima è quella di Livia Zancaner, Radio Corriere sulle 24 ore. Livia, buonasera. Buonasera. Allora, come cantava Vasco Rossi, dammi una spiegazione a questa storia, che spiegazioni non ne ha. Allora, vabbè, gli listini oggi hanno cercato di recuperare dopo le perdite registrate la scorsa settimana, e quindi si è trattato sostanzialmente di un rimbalzo dovuto ad una notizia positiva dopo appunto i timori legati alla situazione di alcuni paesi dell'Europa della scorsa settimana. Quindi si è trattato più che altro di appunto un effetto causato dall'approvazione di questo pacchetto questa mattina alle 2 dall'Ecofin. In realtà i listini non sono però riusciti a recuperare le perdite registrate negli ultimi 4 giorni. Ad esempio il FTSE MIB aveva perso il 12,8%, oggi è salito dell'11,28%, attestandosi comunque ad un livello più basso. E la stessa cosa la si può riscontrare nei principali titoli, come Unicredit, che ha guadagnato il 20,9%, ma sta sempre sotto la soglia dei 2 euro, che era la soglia di chiusura del 3 maggio. Allora, vedo molti messaggi che dicono in settimana crolla tutto di nuovo, complimenti per l'ottimismo. Altri che dicono, ma insomma, se ho guadagnato il 20% oggi con Unicredit o il 17% con Mediobanca, è ovvio che domani vado a vendere, anche questo è probabile. E ancora volete sapere delle vendite, della speculazione, come si può frenare? Alcuni di voi propongono la tassa sui guadagni da borsa, quindi la tassa sui guadagni da capitale, che attualmente, la cosa che fa anche ridere, è che tutta questa speculazione viene tassata al 12,5% in Italia, no? Mentre il reddito da lavoro al 43%. Ma è un dettaglio. Però c'era una proposta che diceva si tassi al 20%, che è la media europea, almeno quei guadagni a breve, non quelli del pensionato o dell'impiegato che compra un po' di azioni, un po' di obbligazioni, ma chi li tiene per un mese, chi li tiene per una settimana. È un invito. Allora Livia, mi sa che dobbiamo risentirci dopo, con grande piacere di tutti, perché adesso c'è il GR e poi invece, al di là dell'aumento generalizzato, vediamo anche se c'è qualche caso specifico, ripeto, più 20 Unicredit, più 19 Intesa, più 16 Mediobanca, più 13 Popolare di Milano, più 13 Generali, più 12 Banco Popolare, più 11 Monte dei Paschi, più 11 Exor, più 10 Telecom, più 10 Buzzi Unicem, e più 10 Fiat e anche Mediolanum. Il titolo che guadagna meno è Snam Rete Gas, che guadagna solo il 2,90%. 349-238-6666 per i vostri sms. Ci risentiamo dopo il GR. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per commentare a questo punto la giornata di borsa, la giornata di quelle che una volta erano borse e oggi sono dei meccanismi così altalene vere e proprie. Più 11,3%, ripeto, bene che la reazione sia stata positiva al fondo annunciato da 720 miliardi. Restano 2000 perplessità, non tanto su oggi ma su quello che è successo la settimana scorsa. Cioè, se i timori erano veri, allora restano anche dopo il weekend; se i timori erano falsi, era speculazione pura. Citavamo i titoli, insomma, oltre ai bancari tutti in rialzo di più del 10%, c'è Telecom più 10,6%, Fiat più 10,6%, Buzzi Unicem identica, 9,9% lo guadagna Mediolanum, 9,5% Pirelli e anche Fondiaria e anche Azimut, l'8,90% lo guadagna Unipol, l'8,80% Atlantia, l'8,60% l'Automatica e anche Ubibanca, l'8,5% lo guadagna in pregiro, l'8,30% Prismian, l'8,1% Saipem, l'8% rialzo di Enel, il 7,80% quello di Mediaset, il 7,60% per Eni, il 7,40% per CIR, il 7% per Ansaldo STS, il 6,70% per Autogrill, il 6,30% per Geox e per Luxottica, il 6,2% per A2A, il 6% per Steam Microelectronics e per Finmeccanica, il 5,40% per Campari. Livia Zancaner, è difficile oggi fare un commento, insomma, così, che discrimini tra i titoli. Vorrei capire però se appunto non qualche, al di là diciamo di tutti i bancari, Mediobanca ha dato anche i conti, l'utile nei primi 9 mesi è salito a 354 milioni, ricavi più 25%, insomma, se c'è una notizia un po' più di sostanza, per esempio l'Automatica, no? Sì, allora, per quanto riguardo l'Automatica, allora le azioni hanno chiuso a più 8,65%, quasi c'è una notizia perché secondo indiscrezioni non dovrebbero essere ancora ufficiali, allora oggi si chiude la gara, cioè la gara per Gratta e Vinci, e appunto secondo indiscrezioni praticamente Sisal si sarebbe ritirata e quindi l'Automatica diventa l'unica a correre per la concessione, e questo appunto, e di questo appunto dovrebbero aver beneficiato le azioni, a parte il rimbalzo del listino. Questo per quello che riguarda l'Automatica. Come tu dicevi, lì c'è una notizia almeno. Anche su Atlanti abbiamo visto una notizia, società autostrade. Sì, allora in questo caso l'amministratore delegato Giovanni Castellucci ha spiegato che nei primi 4 mesi del 2010 il traffico sulle autostrade italiane, per quanto riguarda il traffico pesante, ha compiuto un balzo significativo, mentre quello leggero ha continuato ad accelerare, quindi comunque sono arrivati dati positivi per la società. E Castellucci ha detto che il recupero nel primo quadrimestre è sostanziale, ma non, la società non è di certo ai livelli del 2007. Allora, grazie a Livia Zancaner. A questo punto vedremo poi domani, molti ci scrivono, ma allora domani cosa succede? Sicuramente ha ragione chi scrive che movimenti così forti sono possibili solo se i grandi operatori, quindi le sale operative delle banche, i fondi speculativi, si erano messi su posizioni short, corte, vuol dire che andavano a vendere, scommettevano sul ribasso la settimana scorsa, e adesso partono sempre con l'effetto amplificatore anche degli algoritmi, delle soglie tecniche, ripartono gli acquisti. E ha ragione anche chi dice che era praticamente impossibile comprare questa mattina, è vero, molto spesso poi per il piccolo risparmiatore anche in maniera telematica è difficile accedere, fare prezzo, così come le vendite allo scoperto sono, diciamo, appannaggio dei grandi investitori. Grazie Livia Zancaner. Noi restiamo sul tema, ma che borsa e di che borsa stiamo parlando? Di che borsa stiamo parlando, ma che cos'è questa borsa, potremmo dire, perché insomma il piano c'è, sono 720 miliardi, c'è la partecipazione del Fondo Monetario, ci sono le banche centrali che stanno riacquistando obbligazioni, però insomma obiettivamente delle due l'una, o c'è un eccesso di speculazione la settimana scorsa o c'è un eccesso di ottimismo questa settimana. Ci colleghiamo allora con il professor Marco Nado, che è docente di economia degli intermediari finanziari alla Bocconi di Milano, editorialista del Sole 24 Ore, nonché ex commissario Consob. Professor Nado, buonasera. Buonasera a voi. Domanda, ne ho molte che ci girano gli ascoltatori. Prima domanda, visto che lei ha fatto parte della Consob, le autorità di vigilanza dormivano, sonnecchiavano come il poeta in questi giorni? In questa occasione io non credo che la colpa fondamentale sia... Sicuramente l'autorità di vigilanza, in qualche modo anche delle agenzie di rating, per motivo fondamentale, sicuramente ha sbagliato Moody's a dare delle valutazioni importanti e delicate a mercati aperti, non è stato questo però che ha generato il panico, c'è un problema generale di sostenibilità del debito di un po' di tutti i paesi sviluppati e di alcuni come la Grecia, la Spagna e il Portogallo in particolare. Ma il fatto che questi paesi avessero dei problemi non l'hanno scoperto le agenzie di rating. Lo sappiamo da un anno e mezzo. Esattamente. E poi voglio dire, si tratta di dati conosciuti da tutti e che tutti possono e che non sono peggiorati oggettivamente, cioè sono negativi ma non sono peggiorati. Esattamente. Quindi appunto, a parte questo aspetto qui, il panico non è stato generato dal comportamento delle agenzie di rating. Questo va detto, insomma, i mercati l'altro giorno erano particolarmente nervosi e anche particolarmente assetati di misure drastiche, e le hanno avute. Allora, verissimo, chi ci ha guadagnato, chiedono un motivo? Beh, ci hanno guadagnato tutti quegli investitori o in alcuni casi speculatori che erano con posizioni corte, quindi che scommettevano su un ribasso della borsa, e che hanno potuto farlo la settimana scorsa vendendo allo scoperto, cioè si prenota, si acquista un titolo senza mettere i soldi, magari quando il titolo vale 10 euro, però lo si acquista, poniamo prenda 10 azioni di un titolo a 10 euro, quindi per un totale di 100 euro, solo che non li tira fuori questi soldi, li tira fuori magari 3 giorni dopo, quando il titolo a quel punto è sceso a 7, per cui la differenza su questo, quello che lui risparmia nel comprare quello che gli sarebbe costato 100 euro e lo paga solo 70, questa differenza è il guadagno di chi vende lo scoperto. Spero, professor Nado, che non mi bacchetti per la spiegazione un po' troppo riduttiva. Vorrei farvi sentire dopo le informazioni per chi è in viaggio, però è vero che le agenzie di rating fanno il loro lavoro quando danno il voto, professore, è anche vero che devono fare il loro lavoro dando il voto bene. Cioè, dire a una classe di studenti qualcuno di voi verrà bocciato significa creare il panico, lei me lo insegna. Dire al singolo studente tu hai voti messi male, guarda che ti posso bocciare, è una cosa più seria. Allora, nel passato le agenzie di rating non si sono accorte che lo studente andava male nel caso dell'Argentina, di Lehman Brothers, di Parmalat, di Enron. Questa volta si sono messi a dire in questa classe qualcuno verrà bocciato e lì si scatena il panico tra le borse. Vediamo dopo l'informazione sul traffico di chi sono proprietà, perché insomma il fatto che un finanziere, un investitore, speculatore importante come Warren Buffett abbia il 12% di una di queste agenzie, sono sicuro che non interverrà mai, sono sicuro che non gli forniranno nessuna informazione prima di darle al mercato, però il dubbio resta. E poi vorrei capire se passata la festa, gabbato lo santo, cioè se qua poi arriveremo alle regole per impedire queste forme di speculazione oppure no. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni. Il maggior rialzo di sempre, quello di oggi per Piazza Affari, lo hanno appena battuto le agenzie, più ancora del recupero, diciamo, dopo Lehman Brothers, del recupero. L'ultimo rialzo così forte era del 13 ottobre 2008, infatti, quando la borsa crebbe del 10,90%. Ma lì era crollata una banca veramente, professor Onato, c'è una situazione qui, insomma, sulla base di Moody's, del timori che il debito dei paesi non regga, che si espanda altre banche, abbiamo fatto il maggior rialzo nella storia di Piazza Affari. Comunque, sentiamo chi sono i proprietari delle agenzie di rating. Discusse, criticate, ma di fatto giudici senza appello, le tre agenzie di rating Standard & Poor's, Moody's e Fitch gestiscono un mercato che vale oltre 5 miliardi di dollari l'anno e che, grazie anche a una situazione di oligopolio, frutta regolarmente profitti da capogiro. La torta è suddivisa in due fette più grandi, pari al 40% del totale, che fanno capo alle statunitensi Standard & Poor's e Moody's, e in una più piccola, pari al 20%, riconducibile a Fitch. Crisi o non crisi, le tre sorelle del credito macinano utili da almeno un miliardo di dollari l'anno. Poco importa che le cantonate clamorose non manchino e che il 93% delle obbligazioni classificate nel 2006 al top dell'affidabilità siano poi state via via declassate fino al livello spazzatura. Chi vuole mettere sul mercato un titolo obbligazionario, a loro e solo a loro deve rivolgersi, e per farlo paga. Ma chi c'è dietro a questi tre arbitri, giudici e controllori? L'europea Fitch ha due azionisti forti, ossia il gruppo francese Fimalac e la società editoriale Hearst. Nel caso di Moody's, a farla da padrone sono invece i grandi fondi di investimento a stelle e strisce, a cominciare dal Berkshire Hathaway, del finanziere Warren Buffett, primo azionista con una quota del 13,4%. Segue una lunga serie di pesi massimi della finanza, Fidelity Management e Capital Research, con il 10% ciascuno, e poi ancora BlackRock, State Street e Vanguard, con partecipazioni intorno al 3%. Standard & Poor's è posseduta da McGraw-Hill, che ha tra i suoi azionisti molti dei soci della sorella Moody's. Primo azionista con il 7,7% è il fondo Capital World Investors, e poi a scendere le solite BlackRock, Vanguard, Fidelity Management, State Street e Capital Research. I proprietari delle agenzie di rating sono insomma quei fondi che comprano e vendono titoli a cui le stesse agenzie attribuiscono voti, determinandone prezzo, rendimento ed eventuale default. Tutto normale, professor Onato? Tutto regolare? O qualche sospetto ci viene? Noi, insomma, di conflitto di interessi in questo paese parliamo da 15 anni, ma insomma qui mi sembra che ce ne sia uno. Per carità, gli anglosassoni sono molto corretti, teoricamente quello che fa la mano destra non dovrebbe sapere quello che fa la mano destra e la mano sinistra, ma insomma, alla fine... Un problema c'è naturalmente. I conflitti di interessi fondamentali delle agenzie di rating nascono nell'attività che svolgono, più che nei rapporti con la proprietà, devo dire. Non tanto nel caso del rating ai paesi sovrani, ma per esempio nel caso dei rating distribuiti con grande facilità ai titoli strutturati prodotti dalle investment bank, cioè quelli che poi abbiamo imparato a chiamare titoli tossici, lì c'è un conflitto di interesse grande come una casa, perché loro svolgevano anche un'attività di consulenza. Di consulenza, bellissimo. E questo naturalmente sì, è un problema. Oltre al conflitto, professore, quando uno è un grande cliente, paga milioni alle agenzie di rating per ricevere un voto. A me ricorda un po' quella specie di, tra virgolette, lo dico con molto rispetto, di farsa che è la certificazione ISO 9000, perché poi se tu paghi è la certificazione. Allora, sai, delle volte se sei un grosso cliente, la certificazione o il rating sì, ti arriva un po' meglio. Nel caso di rating poi c'era appunto questa cosa molto, molto delicata, per cui loro magari dicevano questa emissione non vale la tripla A, e allora gli chiedevano: beh, dici tu che cosa dobbiamo fare per meritare la tripla A? E l'agenzia di rating metteva le mani in cucina e in qualche modo contribuiva a confezionare. Sì, che ricordo un po' certi benzinai, lo dico con massimo rispetto anche qui, che dicono: è il tuo olio, la macchina, problemi dell'olio, cosa devo fare? Comprare il mio olio. E vabbè, insomma. Allora, 350 miliardi recuperati, si dice sempre bruciati 140, oggi creati 350 miliardi di capitalizzazione. Professor Nado, che cosa devono fare invece le autorità di vigilanza? Cioè, si possono bloccare in questo periodo, vista l'ondata comunque che non è finita, l'evento allo scoperto? Si può pensare a qualche forma per rendere meno conveniente la speculazione, visto che poi ci guadagnano sempre i soliti? Il problema fondamentale della speculazione è di non fornire le munizioni. Mettere il freno dopo è difficile, per non dire impossibile. E la speculazione, sono state fornite munizioni in abbondanza con la grande liquidità che continua ad essere creata proprio per il salvataggio delle banche, prima nel periodo che ha portato la crisi, poi per salvare le banche, e questo sta continuando ad alimentare operazioni anche di carattere speculativo, in gran parte su mercati non regolamentati, come sono oggi al 99,9% i mercati dei derivati. Però, professore, mi scusi per concludere, io la vedo un po' così. Cioè, la settimana scorsa chi poteva, quindi le sale operative delle banche, tutto il mondo, i fondi speculativi, ha guadagnato tantissimo vendendo allo scoperto, vendendo corto, cioè scommettendo sul crollo. Adesso ci ha guadagnato tantissimo perché si è preso anche invece tutto il recupero, scaricando questi costi su noi cittadini, perché quando l'Europa dice che è disponibile mettere 720 miliardi sul piatto, sono soldi nostri. Allora, in questo vorrei un giudizio sia, diciamo, se la parola non è troppo alta, etico sulla vicenda, ma anche economico sul piano. Grazie. Un giudizio etico davanti a queste cose è difficile, per non dire impossibile. Abbiamo milioni di operatori internazionali che stanno mettendo in essere da 10 anni o 20 anni, e in particolare nell'ultimo periodo, una quantità enorme di operazioni di carattere puramente speculativo. E ripeto, le banche centrali, i governi stanno da un lato offrendo le munizioni a questa speculazione e dall'altro facendo soltanto delle invocazioni alle regole quando succedono i disastri. Ma se i mercati dei derivati non fossero così come sono adesso, totalmente privi di regole, la speculazione sarebbe di per sé meno forte in termini proprio quantitativi, perché noi stiamo parlando di 600 trilioni di dollari di derivati che si mettono 600 mila miliardi di dollari di derivati, 600 mila miliardi, pari a 12 volte il PIL mondiale. Questo valgono i prodotti derivati e altamente speculativi sul mercato, e solo i CDS valgono una volta e mezzo il PIL mondiale. Professore, allora, mi dica, siamo veramente in chiusura. Una montagna di 600 trilioni non fai niente, se non riporti certo. Una parte di quei 600 trilioni sui mercati regolamentati, appunto, avrai sempre una dimensione assolutamente impossibile da controllare. B, non hai neanche le informazioni necessarie per poter intervenire. Quindi solo la legge, un'iniziativa di legge. Mi dice sì o no, le piace il piano europeo, la convince sì o no? Sì, però è il primo passo di una unione politica che non deve durare lo spazio di un weekend l'acqua alla gola. D'accordissimo con lei. Grazie anche a Marco Nado, da Sebastiano Barisoni, a voi in ascolto un augurio di buona serata, noi ci risentiamo domani con un'altra puntata di Focus Economia. Radio 24. La passione si sente.